Ciao a tutti, io sono Marco, il papà. E io sono Matilde. Oggi leggeremo una storia che si chiama Dove nascono le nuvole. Papà, di cosa sono fatte le nuvole? Chiese quel pomeriggio di novembre la piccola Ludovica, mentre stretta nel caldo abbraccio di una sciarpa di lana di colore rosa, osservava seduta dietro l'auto la candida cortina di nebbia che avvolgeva ogni cosa. Le nuvole sono fatte di piccole gocce d'acqua che si abbracciano tutte insieme. Il papà rispose con un sorriso appena accennato. Si abbracciano tutte insieme perché si vogliono bene? Riprese subito a domandare la piccola. Beh, sì, credo di sì. Disse il papà grattandosi il capo. Papà, forse le goccioline si abbracciano tutte insieme perché sentono freddo, come me adesso. E così dicendo, la piccina si strinse forte le braccia intorno al corpicino. Forse anche loro sentono freddo e nel calduccio della nuvola trovano un po' di ristoro. Disse fantasticando il papà. Ludovica tirò un sospiro, sorrise e poi appiccicò il suo nasino al finestrino e per un po' se ne stette in silenzio ad osservare, mentre un panorama delle campagne addormentate e della montagna dipinta dei colori dell'autunno le scorreva dinanzi. Papà! Ancora una volta si fece largo nel rumore sordo dell'abitacolo, la voce impertinente della piccola. Ma quando le nuvole avvolgono le case e gli alberi le riscaldano come una coperta? Certo, piccola mia, le nuvole sanno che sta per arrivare l'inverno e perciò si abbassano sugli alberi e sulle case per tenerle al calduccio. Ma se le nuvole sono fatte di piccole goccioline, le case e gli alberi si bagneranno, disse Ludovica sobbalzando sul sedile. Si bagneranno soltanto un po', poi ci penserà il vento ad asciugarle. Che cos'è il vento, papà? Il vento è lo starnuto delle nuvole. Sono un po' maleducate le nuvole se fanno gli starnuti sulle case e sugli alberi. Però mi sono tanto simpatiche. Sono simpatiche anche a me. Quando ero piccino come te, mi divertivo a guardare tutte le forme che facevano ogni volta che starnutivano. Papà, ma le nuvole dove abitano? Abitano in cielo. E la loro casa dov'è? Non la vedo. La casa delle nuvole è sulle cime delle montagne. Ludovica fece uno sbadiglio. Si stropicciò i suoi furbi occhietti marroni e poi, con la vocina più stanca, chiese ancora: Papà, ma le nuvole ce l'hanno il lettino per dormire? Ma certo, le nuvole si addormentano sulle onde del mare. Come sono fatte? Sono fatte di tutte le stelle del cielo. E la luna? Quella la usano per farci il cuscino. Un dolcissimo sorriso illuminò il viso della bambina, che, socchiudendo gli occhi e stiracchiandosi, continuò. Che bello dormire sul mare con un cuscino fatto di luna. Il mio è di stoffa, però. Papà, questa notte puoi chiedere alle nuvole di scambiarci il cuscino? Lo farò, piccola mia, ma non so se loro saranno d'accordo. Papà, mi abbassi il finestrino? Voglio giocare con questa nuvola che è scesa fino a terra prima che scappi via. La piccola mise per qualche istante la mano fuori dal finestrino. Brrr, che freddo! Papà, riesci a sentire? La nuvola sta ridendo perché le sto facendo il solletico sulla pancia. Il papà sorrise, poi rimase in silenzio. Forse anche lui aveva voglia di fare solletti con la nuvola. La piccola stette ancora un po' ad accarezzare l'aria e la nebbia, ridendo e giocando con la sua nuova amica. Poi ritrasse la mano e il papà richiuse il finestrino. Il tepore dell'abitacolo l'avvolse come una morbida coperta. Ludovica guardò verso il cielo. che era coperto da grigi nuvoloni. «Guarda, papà, i genitori della mia nuvola la stanno chiamando!» «Forse le stanno dicendo che è ora di andare a casa, sulla cima della montagna!» «La montagna, dove abita la mia amica, è vicino alla nostra casa!» «Domani potremmo giocare ancora insieme!» Ludovica salutò dal finestrino la sua amica nuvola, e la osservò raggiungere il cielo finché non si confuse con tutte le altre. Stette ancora un po' in silenzio, poi rannicchiandosi sul sedile e adagiando la guancia dipinta di rosa sul dorso della sua mano, sbadigliando ancora una volta, chiese candidamente: «Papà, ma dove nascono le nuvole?» Il papà sorrise e le confidò: «Nascono dai pensieri di tutti i bambini che sanno giocare con la propria fantasia e sanno ancora sognare. Le nuvole custodiscono i sogni di ogni bambino del mondo.» «Allora, papà, non svegliarmi», disse Ludovica. «Adesso devo regalare alla nuvola tutti i miei sogni.» La bambina si addormentò. Un lieve sorriso si adagiò sulle sue piccole labbra. «Dormi, piccola mia, e regala al mondo i tuoi sogni.» Dalle cime delle montagne più lontane le nuvole si aprirono, e così il sole per un istante regalò un tiepido raggio alla guancia della piccina. «Le nuvole hanno ricevuto i tuoi sogni, piccola.»